Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. A partire da maggio una nuova piccola città si aggiungerà alla periferia di Milano. Parliamo di Expo naturalmente, e l'opportunità di progettare da zero le infrastrutture di una piccola città non capita spesso in Italia. L'Expo ha rappresentato da questo punto di vista una buona opportunità per sperimentare alcune soluzioni avanzate e in particolare un modello di gestione della domanda di energia elettrica che nella prospettiva delle cosiddette smart grid dovrebbe diventare la norma. Ne parliamo con Claudia Guenzi, che è responsabile della Business Unit Smart Grid di Siemens Italia, che insieme a Enel ha progettato appunto la piccola smart grid che fornirà energia all'Expo. Buonasera Guenzi. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo detto, questo modello si chiama Demand Response. Intanto ci spiega brevemente di cosa si tratta in termini generali. L'obiettivo del Demand Response è quello di non andare ad agire solo sulla disponibilità di energia, ma anche sul consumo dell'energia stessa, per ottenere quel famoso bilanciamento generazione-carichi che è alla base della realizzazione delle smart grid. Quindi normalmente che cosa si fa? Le centrali elettriche inseguono la domanda di energia. Quindi si tratta invece di chiedere anche alla domanda di darsi una regolata. Ecco, voi avete scelto questo approccio degli scenari. Ecco, ci spiega come funziona? Sì, certo. I padiglioni all'interno dell'area espositiva di Expo 2015 potranno operare secondo 5 diversi scenari. Okay. Potranno operare in massimo comfort e quindi senza guardare i consumi energetici. Lo scenario allegro, come lo chiamo io, ecco. Dimostrare il loro vestito più bello, appunto. Potranno operare secondo uno scenario di efficienza. Sì. E quindi andando a bilanciare il comfort che verrà in qualche modo garantito, ma cercando di limitare il più possibile i consumi energetici. Potranno operare in ottica demand response e quindi verrà data loro una curva di carico che dovranno seguire nell'arco della giornata, andando a modulare i diversi consumi dei diversi apparati presenti o dei diversi sistemi presenti all'interno del padiglione. Ecco, però ecco, spieghiamo bene questa cosa. Qui non è che poi non si può uscire da questa curva o ci si mette appunto completamente nelle mani dell'operatore della rete, no? No, viene contrattata questa curva, diciamo. Insieme agli energy manager dei diversi padiglioni, che definiranno quali carichi sono interrompibili in quale momento della giornata e per quanto tempo. Per cui il sistema e il software intelligente che abbiamo sviluppato e progettato insieme ad Enel Distribuzione consentirà in maniera automatica di andare a interrompere o a modulare questi carichi che sono stati definiti preventivamente. Il condizionamento in un padiglione, per esempio, no? Esatto, il condizionamento, la luminosità, la temperatura dei frigoriferi o dei forni, visto che il cibo sarà il leitmotiv dell'esposizione. Andrà a modulare o a interrompere per un limitato periodo di tempo questi carichi per consentire al padiglione di rispettare questa curva di carico che gli è stata indicata. In pratica, in questo caso, è il consumatore che mette a disposizione un po' di flessibilità, sostanzialmente per il bene, diciamo, della rete. Mettiamolo in questi termini. Ecco, chiudiamo con gli ultimi due scenari e poi torniamo su questo tema del demand response. Gli ultimi due scenari sono uno scenario che abbiamo chiamato overlimit, che permette di fissare dei parametri di carico massimo, raggiunti i quali il sistema consentirà, andando a interrompere e modulare alcuni carichi, di rientrare all'interno dei parametri definiti, oppure una modalità emergenza, sì, per la quale è in questo caso il distributore elettrico che chiede di intervenire su quelli che sono i carichi del padiglione, perché per un qualsiasi motivo si è verificata una situazione di emergenza e bisogna ridurre il carico della rete. Anche in questo caso le regole che governano i diversi profili sono state preventivamente definite con gli energy manager dei singoli padiglioni, e quindi insieme a loro si è deciso quali servizi, diciamo, sono vitali, quali sono interrompibili e quant'altro. Esatto. Ecco, insomma, si tratta, abbiamo capito, di contrattare tra chi fornisce energia, sostanzialmente, e chi la consuma, delle condizioni per cui uno mette a disposizione flessibilità e in cambio dovrebbe ricevere qualcosa. Ecco, da questo punto di vista, com'è oggi la normativa in Italia, i regolamenti, ecco? Ma il demand response ad oggi in Italia non è normato. Nulla vieta di farlo, ma nel momento in cui non viene definita una remunerazione Per chi mette a disposizione questa flessibilità, naturalmente nessun soggetto è particolarmente motivato, insomma, lo fa. È incentivato a operare in questo modo. Quindi è sicuramente una modalità di gestione delle reti innovativa e interessante, che però ha bisogno di una normativa, soprattutto dal punto di vista della remunerazione, affinché venga poi applicato su ampia scala sul territorio italiano. Va bene, grazie Claudia Guenzi. Grazie mille a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani.